Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Attaccare! Ma devi gridarlo forte! Attaccare! Più forte? Non più forte! Più forte, perché attaccare, è nello stadio! Attaccare! Ma dai, state a vedere! Attaccare! Io sono ancora qua! Eh già! Io sono ancora qua! Ma io non ho mai cambiato idea. Io sono qua per stare fino al 2023. Ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già. Forse non ci si è resi conto fino in fondo che noi abbiamo trovato la città nelle stesse condizioni in cui Mario Monti ha trovato il paese prendendolo dalle mani di Silvio Berlusconi. Qui c'erano stati i ladri. Più su, più giù, più su. E abbiamo dovuto fare come quando si spegne un computer, si fa reset. C'è un momento in cui lo schermo non lo vedi più e devi riniziare. La vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende alla malinconia, poi piango, poi rido, poi non mi decido. Cosa succederà col cuore che batte più forte? Eh sì, dai, iniziamo con Vasco che ieri era qua a San Siro, anche l'altro ieri. Ma ieri c'era la nostra Elisabetta Fusconi, Io sono ancora qua. Era, credo, al 4000° concerto di Vasco Rossi vissuto in diretta, quindi la rappresentanza di 24 mattino è salva. Io sono ancora qua, Ignazio Marino rilancia fino al 2023, starò qua. Due mandati. Io sono ancora qua. Oh, a me Ignazio Marino comincia a stare simpatico. Io sto con Marino in questa sua resistenza a oltranza, anche perché c'è un piccolo particolare. Ignazio Marino, a differenza di altri che vorrebbero cacciarlo, è stato votato. Capisco che è una cosa un po' reazionaria questa nel panorama italiano. È stato votato. Cioè, ci sono dei signori e delle signore che sono andati un giorno in cui si votava, hanno preso la bicicletta, la macchina, le loro zampette, sono andati al seggio, hanno scritto Marino Ignazio, hanno messo nell'urna e l'hanno votato sindaco. E vabbè, capisco che è una cosa. Poi guardate, ha una caratteristica che anche questa, capisco, rischia di essere un po' sovversiva, reazionaria in Italia. Ma mi sembra una persona per bene. Io resto sempre medico. Per cui viva Marino! Resisti! Ovviamente io sono l'avvocato delle cause perse, dopo questa cosa verrà dimesso nel giro di 2 settimane. Il suo destino è segnato, abbastanza. Però, attaccare! Bravo Marino! Su Marino, urlano più forte, più forte, attaccare! Più forte, più forte! Attaccare! Non va con quello che non si prende, con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende. Mica come Inzaghi, attaccare. Poi piango, poi rido, poi non mi più forte. Attaccare! Cosa succederà col cuore che dai, batte dai, forte. Dai! La lotta da passare. Allora, sono le 6:33 minuti ed è venerdì. Io sono ancora qua. È venerdì. 111esima settimana decisiva per l'abolizione delle province che se ne va. Ma tanto com'è che ha detto Renzi da Porta a Porta? Lo recuperiamo anche quello. Lui ha detto che non è vero che voleva abolire le province. Non ha mai detto che ha abolito le province, quindi è tutto. Sono ancora lì le province. Anche la 112esima settimana la passeranno in scioltezza. E vabbè, sono cose che capitano, verrebbe da dire. Non potendo eliminare le province tout court, abbiamo detto le province rimangono, ma sono termine tecnico. Le province avete fatto un po' di casino. Ma no, Vespa, dai! Scusi, Vespa. Le province non le puoi togliere d'amblè, perché chi gestisce le strade nelle porcaccia la miseria e allora niente vabbè. 6:33 minuti, Lorenzo Nespoli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, conclude la settimana con noi. E dai, apriamo il Parlamento, perché qui c'è da salutare subito un vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. Due grandissimi ritorni, intanto Paolo Del Debbio, eccolo qua, Paolo Del Debbio. Ma come va? La ricordi questa? Paolo Maledetto. Dei burloni. Ma quindi adesso vabbè, quinta colonna è in vacanza e via. Ma l'altro no. Ma l'altro no, dalla vostra parte rimane, mi sembra giusto. Rimane, sì. E quindi tutti i giorni su Rete 4 alle 20:30, minuto più, minuto meno, il nostro Paolo Del Debbio. Senti un po', Paolino, ti voglio presentare un graditissimo ritorno dal TG della 7, la nostra Silvia Brasca. Silvia, fai presto, che sono le 8. Se non ti muovi, tutto è Vasco. Ma a te piace Vasco, Silvia? Abbastanza. Non mi fa impazzire, sì. Però non sei andata, non sei andata a San Siro. No, tu a San Siro vai solo per l'Inter. Solo per l'Inter a San Siro. Sì, sono cose che capitano, anche queste. Silvietta Brasca, eccoci qua. Come state? Tutto bene? Allora, Paolo Del Debbio, ti è simpatico Marino o no? Sottomarino? Ignazio, Ignaro Marino. Mi fu simpatico quando si occupava di questioni sanitarie al Senato. L'ho avuto varie volte da chirurgo. Dopo non l'ho più visto, insomma, non è più venuto. Quello anche con me, proprio all'inizio ti dormiva sullo zerbino quando chiedevi un'intervista, adesso figurarsi, ma io non sono uno che mi attacca a queste cose, quindi ma figurati, che me ne frega, esatto. Anche a me, se vuol venire viene, se non vuol venire non viene. Si vive lo stesso, cioè, la fai lo stesso lui. La trasmissione, cioè, vivo io, vivo in tutti. Cioè, stasera si va in onda anche se non c'è Marino, sì. Non si smette mai. Vabbè, però al di là di questo, che ne pensi? Cioè, fa bene a resistere. Insomma, è stato votato dai cittadini, a differenza ci sono comuni nei quali per molto meno sono stati buttati fuori a calci nel culo, insomma. Quindi non è che si può fare sempre tutto come se fosse finta di nulla, che, compresa la Calabria. Sono dei comuni che sono stati chiusi e poi dopo ci si è accorti che non c'era niente, insomma, quindi qui c'è una quantità di roba che, e devo dire che sia pur vero che lui non c'era quando succedevano delle cose, però è pur vero che quando stanno succedendo le robe nelle periferie, nella gestione degli immigrati su Roma, eccetera, eccetera, lui c'è, cioè, è una delle gestioni più scandalose che ci siano, ma non prima di Buzzi, dopo Buzzi. Quindi voglio dire, quindi vabbè, le responsabilità ci sono, certo che però un po' di sfighe gli capitano. Oggi il Corriere racconta che Roma si è messo su una montagna di sterco, se ti metti su una montagna di sterco ti puoi sporcare. Si è seduto su una sedia normale, insomma, si è seduto su delle robe lasciate da un po' da tutti, e voglio vedere chi si tira fuori è tutta sta baracca. Cioè, se ti siedi su una montagna di sterco, rischi di sporcarti i pantaloni. Ecco, appunto, hai citato Alemanno perché un po' di sfiga c'è. Oggi il Corriere racconta che Roma, attenzione cari ascoltatori, il comune di Roma rischia un ulteriore buco di 350 milioni. No, perché? No, rischia, c'è già fuori. C'è già fuori. Ma certo, è oltre 350 milioni, da calcoli un po' più, diciamo, raffinati, sì. Insomma... sa che sono ben oltre 400. Credo che ce ne sia un ulteriore, perché è stato giudicato incostituzionale il salario accessorio pagato nell'era Alemanno ai dipendenti del comune, e quindi c'è questo altro buchetto rischia. Ma lì c'è una cosa tipo Lama, no? C'ha 7.000 dipendenti, da quasi tutti in subappalto. Sì, è vero. Ma è un comune che ha 44 società partecipate, unico ente pubblico. Non ci ha messo le mani nessuno, è colpa mia. Oggi il Corriere racconta che è l'unico ente pubblico al mondo proprietario di una compagnia di assicurazioni. Comunque, Silvietta Brasca, tu che stai a Milano, ti è simpatico? Ho vissuto a Roma 4 anni. Hai vissuto a Roma 4 anni, questo ti dà titolo. Gli anni gloriosi di Matrix. Giusto. Sindaco Matrix è stato sindaco. Nel senso Matrix. E chi è che c'era sindaco? No. C'era Alemanno? Ho visto Alemanno, sì. Ho visto Alemanno. Di Alemanno, e prima di Alemanno chi era? Rutelli. Veltroni. Veltroni, Rutelli. Sì, ho fatto un po'. Con le due gestioni ho visto la scalinata un po' Veltroni sulla destra e il saluto romano, la vittoria di Alemanno. E non ti sei accorta, anche tu sei complice di tutto quello che stavano facendo, eh? No, ce ne siamo accorti. Ve ne siete accorti. Vabbè, ma ti è simpatico sto Marino? È stato ingeneroso con Marino. Sì. Dai, sì. Un po' ingeneroso. Sì, è ingeneroso, dai, perché intanto lui bisogna avere un gran coraggio a candidarsi a sindaco di Roma. Ha ragione che ricevette esattamente il comune come Monti ricevette l'Italia, e vediamo che difficoltà c'è a cambiare qualcosa. Lui perlomeno ci ha provato. È vero che è stato eletto, questa mafia capitale a 6 mesi ci sta provando, è atipico Marino come personalità, lo sai bene, l'hai visto, l'hai citato come senatore fece una bellissima battaglia sull'eutanasia, sempre sembrava un ossimero, però insomma, una persona valida. Lo so, però nessuno l'ha obbligato, cioè tu dici se candida si è messo lì. Aspettiamo, però non è Alice nel Paese delle Meraviglie, un po' che è lì, non sta facendo un cazzo per fare presidente di Roma, è colpa mia. Intanto ha provato, non è vero che non ha fatto niente, ma niente, non è vero, zero. Io lo seguo da 16 settimane, zero. Ma zero. Cioè, in che senso? Per i cittadini? Per i cittadini, dici? Da 8 mesi lo seguo. Zero. Ma zero in che senso? Zero per Roma? Io non ce l'ho con Marino, io seguo anche Torino e seguo anche Milano. Quindi voglio dire, zero. Ha fatto zero. Non ha spostato una situazione di immigrazione, non ha spostato una situazione di irregolarità, zero. Zero. Basta. Per carità, per me ci può rimanere quanto gli pare, in virtù delle belle battaglie. Sai cosa? No. Ma al di là di tutto, ci sono tanti sindaci, Paolo, che fanno zero. Però quello che dà un po' fastidio, almeno quello che a me ha dato un po' fastidio, è che sia stato rottamato. È che sia stato rottamato in diretta TV da porta a porta, voglio dire. Ma che modo è? Ma quelli Renzi, vabbè, un altro discorso. Quello è Renzi, quello è un altro mondo a parte. che vuol dire? Cioè, quello Renzi si sa che fa le cose come intende lui e basta. Cioè, non è che c'è da meravigliarsi, no? Renzi, punto e basta. No, è chiaro, ho capito Silvia, Renzi e Renzi, vabbè, quello deve essere. Ma anche Marino è abbastanza solo, lo è sempre stato. Cioè, non è che solo si mette a portarsi dietro. Cioè, poverino, che sta sempre il bambino stupido che abbiamo messo lì. No, ma no, no, no, quello no, no. No, effettivamente appare un po' uno incapace di incidere nella cosa pubblica. Senti però qua Orfini, sentite Orfini, eh? Orfini, presidente del PD. Cioè, nel momento in cui si chiude la partita Mafia Capitale, si deve ripartire l'azione amministrativa. Renzi ha detto una cosa chiara: Marino, dici se te la sei. Dicci se te la senti, ma questo veramente è il colmo. Renzi ha detto: Marino, dicci se te la senti. Oh, è 20, allora, è 20 giorni che dice sto fino al 2023. Sì, e lo stesso dicono gli italiani a Renzi sull'immigrazione. Dicci se ce la senti. Ma infatti, ma poi Marino ha già detto mille volte sto fino al 2023, quindi ha risposto se la sente. Direi appunto, che se la sente benissimo. No, ma io dal punto di vista, diciamo, del rapporto politico, di potere, eccetera, eccetera, tanto di cappello a Marino. Dal punto di vista della sua operatività, di quel che fa, certamente. E vabbè, questo in teoria in democrazia lo giudicheranno gli elettori tra due anni quando si va a votare. In teoria, poi funziona così. Però vabbè, capisco che qui ha preso una piega diversa. Vabbè, cara Silvia Brasca, hai visto che nella tua Milano, tu sei una che sei andata alla stazione centrale a portare un po' di aiuti? Hai portato un qualche panino? Hai portato... No, ma io sostengo Arca, che è la Onlus che aiuta. No, sono andata a lavorare. Cioè, sono andata a vedere, poi da volontaria niente, ho fatto la cosa più semplice che è quella per chi può, insomma, di sostenere un po' economicamente una delle onlus che da sempre lavorano lì. Però io è un po' di giorni che dico: ma non è un po'. Cioè, non è uno schifo totale vedere che siamo come paese, come Stato, gestiamo questa vicenda che periodicamente ci viene spacciata come emergenza in questo modo qui? È da paese civile? No, non è da paese civile. Io penso che ci sia un'ipocrisia da quando iniziano a sbarcare, quando sbarcano a Lampedusa. È dal 2013 che chiudiamo tutti gli occhi, che ci va benissimo che salgano sui treni senza pagare il biglietto, che se ne vadano il più in fretta possibile in Germania. Tutti sappiamo che qua non ci vogliono stare e quindi non vogliono fare i clandestini qua, quindi da quando dai centri dal CARA se ne vanno e vanno e prendono i treni e arrivano alla stazione centrale, andava bene a tutti. Sì. Prima di tutto a loro, perché lì sapevano che in fretta potevano andarsene, hanno chiuso gli occhi e è crollato tutto quando si è bloccato Schengen, quando c'è stata un'ondata più grossa dalla Libia, ma è un anno e mezzo che era così. Sì, ma infatti, devo dire che i siriani, fa meno le famiglie dei siriani, il bambino lì col bambolino fa meno paura che vedere dei ragazzi eritrei di 20 anni, danno meno un senso di... Vabbè, ma sì, queste sono le reazioni psicologiche che sono da tenere in conto, ma ripeto, a me non so. Salvini sulle reazioni psicologiche ci gioca molto. Tra poco lo sentiremo, Salvini. Però Paolo, tu vuoi che lo raccontate? È una roba da paese civile, una roba da schifo, da terzo mondo in realtà, ma... Sì, ma ci sono due questioni, no? Una è la decisione sulle questioni grandi, cioè che sono geopolitiche, come si dice, eccetera, sulle quali certamente non è semplice operare, la Libia, cioè poi ci siamo messi in mano all'ONU, quindi figurati. A babbo morto, va bene, e con la velocità e con la, diciamo, cogenza delle decisioni dell'ONU stiamo freschi. Ma cioè, poi c'è un'altra storia, c'è una questione organizzativa. Sì. Se uno in provincia di Treviso manda, va bene, in un paesino di 21 abitanti 40 immigrati, quello lì è un cretino. Punto. Non è che c'è da ragionarci tanto. Ma infatti, se uno manda in un paese di 100 abitanti 150 immigrati, come all'Izzola, ma è così, 150 delinquenti, ma ho capito, ma è una questione organizzativa. Scusi Brasca, io quando parlo dico i nomi come sono. Allora, ho detto immigrati, non delinquenti. Appunto, io so cosa dico. Conta. Se dici immigrati, manda 150 immigrati. Ma no, ma però ha ragione, in un paese di 100 abitanti non puoi mandare 150. Ma scusa, ma organizzi. Ma cosa organizzi che li mandano lì con un pullman, come ha mandato lassù, li lasciano lì, il sindaco non sa neanche che arrivano. Ma cosa organizzi? No, è così, è così. Cioè, provi, cioè provi, il senso, ma ripartiamo, ripartiamo dopo il traffico. Il senso, ma no, ma 150 immigrati. Ma non è questione di spaventare, è questione di mancanza di organizzazione. Cioè, il senso che sia fatto tutto a caso. Questo è a caso. A 150 immigrati, cioè, se uno li mette in un paese con 100 abitanti, c'è la potenziale, il potenziale rischio di creare come minimo un pochino di tensione. Poi sarà sbagliata, ma voglio dire, siamo tutti umani, no? E quindi andiamo al traffico, poi entriamo. Mina, è da anni sto sul posto del traffico, va? 24 mattino. Vabbè, dai, oggi non mandiamo la segretaria, mandiamo più avanti alle 8.40, così chiacchieriamo un po'. C'è da dire che il senso di incapacità si misura, per esempio, con le parole che ci ha detto ieri il sindaco di Tarvisio, che ci ha raccontato come in Austria ci vogliono 20 giorni per esaminare la domanda per uno che chiede di essere considerato profugo. 20 giorni. In Italia un anno. 20 giorni, un anno. E in Austria non si fa ricorso se viene respinta. In Italia si fa ricorso. Sentite qui Salvini. Salvini ieri ha donato il sangue e non perde occasione per dirla, per metterla su questo piano. Il dono del sangue è bello perché è gratuito, volontario e anonimo. Io spero che il mio sangue vada a uno straniero che ne ha bisogno. Io dono sangue da quando ho 18 anni, quindi non mi interessa a chi va. Eccolo lì, non mi interessa chi va. Vabbè, Del Debbio e Brasca, su questo siete in disaccordo. Paolo, non ti piace? Cioè, l'Italia si sta comportando in maniera arruffona, ecco. Questo. Vabbè, insomma, ma che ci vuole anche giustificarlo? Cioè, è una cosa che va, di cui bisogna anche discutere, che si sta comportando in modo arruffone. Cioè, non so, che dobbiamo vedere ancora. Che dobbiamo fare? Ditemi voi. Guardate la scogliera di Ventimiglia. Sì, no, quella lì, anche lì. Sì. Un attimo lì, no. Dai, Silvia, poi, quella lì è l'emblema. Ma non sto dicendo che le cose vanno bene. Certo che è una situazione difficilissima da gestire. Spero di non sentire dei toni. Va bene, c'è una situazione. C'è la scogliera di Ventimiglia. È successo qualcosa a Ventimiglia con quei poveracci che sono sulla scogliera? Non fanno niente. Appunto, ma è questo io. Che si dice, che l'Italia non fa niente. Sì, che sono persone, non le puoi metterli in quel modo lì. Sì, lo dico io perché è successo. No, ma è questo che si sta discutendo, che l'Italia non è in grado, cioè un paese che lascia delle persone, esseri umani, vivere 20 giorni su una scogliera, dicendo perché la Francia non li fa passare, ma la Francia non li fa passare come noi a Tarvisio. Ripeto, da ieri abbiamo ripristinato i controlli di frontiera. Perché firmammo quel disperato e folle, lo controfirmò Prodi, sì. Lo firmarono prima, quello lì, il trattato di Chambéry. La Francia applica un semplicemente un trattato, non fa passare chi non ha i documenti in regola, diciamo, tutto. Il trattato di Chambéry non fa. Vabbè, su questo, vabbè, però i toni si sa sono questi. Sentite Mario Giordano due giorni fa di fronte a Fiano. Tenete conto che Mario Giordano è uno un po' che fa le battaglie, ma Emanuele Fiano è un deputato del PD, uno di quelli più compassati, sempre più disposti al dialogo. Alla gabbia è finita così. Hai detto delle balle, Mario Giordano niente, basta, non sei più tenuto, Silvia, non sei più tenuto, vabbè. Guarda, li conosco bene tutte e due, perché ti dico, per Emanuele Fino l'ho voluto quando era consigliere comunale e mi ha sposato, proprio questo lui che mi ha... Cioè veramente, ti ha sposato? Fammi sposare. Ti ha sposato Emanuele Fino, ed era così, oppure era più tranquillo? No, è difficile che perda la testa. Appunto. Giordano è stato un mio direttore e delle volte ha usato questi toni... con me e poi dopo sono tornata a lavorare con Giordano con una grande felicità. Quindi Giordano invece ogni tanto uno scambio di

ma anche della finanza. Il salvataggio delle banche è stato pagato dai deboli. Questo è il concetto chiave espresso in maniera ovviamente più articolata nell'enciclica dal Papa. Tanto che Iena sulla stampa, pagina 3, commenta così: compagno Papa. Tra l'altro, domanda, essendo un'enciclica ambientalista, va da sé, è ovvio che sarà stampata su carta riciclata, come minimo, come minimo. Ecco, no, il cardinal Turkson, o Turkson, visto che è americano, viene, no, è africano, e dunque Peter Turkson, come si pronuncerà? In ogni caso, intervistato dal Giorno, dice, no, effettivamente su carta riciclata dovrei controllare, ma temo di no, e ammette: in Vaticano sprechiamo ancora molta carta, dovrei fare un po' di ricerca, ma credo che siamo indietro. In effetti sarebbe una buona idea risparmiare carta, vista la gran quantità di documenti e materiale utilizzato negli uffici. Caro cardinale, la carta costa, la carta costa, e quindi svolta verde, visto che l'enciclica ha una svolta ambientalista. A proposito di carta costa, siamo qui, ma sì, non ho letto niente della strage in America di neri perché non c'è tempo, ma la carta costa, l'articolo più inutile è sul Corriere, dove a pagina 16 Maria Luisa Agnese fa un lungo trafiletto, dugo tutta la pagina, per raccontare bianco, rosa pallido, beige, un tocco di nero. Sì! Agnese Renzi in beige e rosa si veste bene, incontrando Michelle Obama. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Interplanet.it, servizi innovativi di telecomunicazioni nel Veneto. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei. Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Sono le 8:20 minuti, la notizia politica del giorno sembra ancora la vicenda Marino, il dibattito, si dimette, non si dimette. Oggi dai giornali si scopre che addirittura c'è un rischio di buco ulteriore di 350 milioni nei conti comunali, perché il ministero ha giudicato illegittimi dei pagamenti dello stipendio accessorio dei dipendenti al Comune di Roma, peraltro fatti nell'era Alemanno, e quindi chiede al Comune di Roma indietro 350 milioni. Però Marino dice ancora al Messaggero: rimarrò fino al 2023, non cede di un millimetro. Abbiamo dovuto fare come quando si spegne un computer, si fa reset, c'è un momento in cui lo schermo non lo vedi più e devi riniziare. Io non ho mai cambiato idea. Io sono qua per stare fino al 2023. Due mandati dunque, non uno. Cioè mi ricandiderò e dal 2018 rimarrò fino al 2023. Io voglio partire da qui a chiacchierare con il protagonista, con il mio primo ospite di oggi, che è Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Michele Emiliano, buongiorno. Buongiorno. Senta, poi parliamo di cose pugliesi, perché ce ne sono tante sulle quali vorrei farle le domande. Però le chiedo questo: ma Marino, fosse in Marino, lei che è stato anche sindaco della città importante a Bari, si dimetterebbe? Se una persona ha la coscienza a posto, sta facendo il suo massimo per realizzare l'obiettivo che gli è stato indicato dagli elettori, non vedo perché dovrebbe dimettersi. Se viceversa dovesse valutare che questo obiettivo non è raggiungibile, allora è chiaro che potrebbe anche prendere una decisione di questo tipo. Sì, però dimettersi perché glielo chiedono in maniera più o meno esplicita, magari in trasmissione televisiva il Premier, magari no, lei dice. No, ma magari neanche per niente, cioè, nessuno può interferire su una decisione del genere se non c'è un elemento obiettivo e soprattutto se non c'è un sentimento dentro il protagonista di questa vicenda, che è il sindaco. E pare che non ci sia. E invece, da magistrato antimafia, qual è? Ma lei vede, se ha letto un po' le carte, c'è mafia a Roma? La definirebbe così? da 40 anni a 50 anni, insomma, Roma è un po' come tutte le altre grandi città italiane, piena di interferenze da parte di varie organizzazioni criminali italiane. Allora questo vuol dire che potrebbe esserci lo scioglimento per mafia, sì. Ma la stessa cosa poteva valere, non so, 20 anni fa per Milano, o per la Liguria o il Piemonte, cioè ci sono stati molti momenti in cui le organizzazioni mafiose italiane, in futuro potrebbe anche essere da parte di organizzazioni mafiose estere, cioè la forma moderna della criminalità ha natura mafiosa. Sì, no, resta da capire se la mafia si è infiltrata proprio nel comune, questo è il discrimine. Questo onestamente non mi pare, anche perché se così fosse le operazioni di polizia e le indagini della magistratura sarebbero state più chiare. È chiaro che il comune di Roma è un comune gigantesco che ha un budget come quello di una nazione, sì, insomma, sì. E quindi è ovvio che è una torta alla quale è inimmaginabile che le organizzazioni di quel tipo rinuncino, come tante altre operazioni, le Olimpiadi, l'Expo, i grandi eventi, le grandi. Ma dove ci sono pubbliche. Soldi ci si buttano. Ma le mafie non sono il prodotto della povertà, o meglio, sono il prodotto della povertà probabilmente, ma vanno dove ci sono i soldi. È chiaro. Allora, Emiliano, insediato in Puglia, che ti fa come prima cosa? È un bel provvedimento grillino, l'ha definito qualcuno, altri l'hanno definito populista, demagogico. Noi siamo con lei, glielo dico subito, ma insomma, lei vuole ridurre da 8.000 a 5.000 euro al mese gli stipendi dei consiglieri regionali. Ma io non sono ancora insediato, penso che la cosa avverrà forse lunedì, martedì. Vabbè, però lo fa. Ho lanciato un'idea, anche perché mi sono caduti sotto gli occhi i numeri, no? Non che prima non lo sapessi, però voglio dire, quando una persona ha uno stipendio lordo, tutto compreso, che supera i 10-11 mila euro al mese. È un po' troppo. A me sembra un po' troppo di questi tempi. E lei lo vorrebbe portare a 5.000 netti. Con 5.000 netti si vive bene. Io ho pensato che lo stesso stipendio del sindaco di Roma, del sindaco di Milano o di Bari sia sufficiente, un po' più di 5.000 euro. Un po' più di 5.000. Sai che molti, per reazione, uno ieri alla zanzara di consigliere ha detto: io allora proporrò per polemica 1.000 euro, dai, anche con 1.000 euro si vive bene, no? No, c'è anche un'altra idea, onestamente, che io avevo lanciato durante la campagna elettorale, ma lì, insomma, ho rischiato grosso, nel senso, ho detto: paghiamo solo delle indennità a chi per svolgere il mandato dimostra di non poter proseguire la propria attività, cioè a questo punto veramente facciamo gratuitamente, però se c'è una situazione nella quale io devo chiudere il mio studio medico, sì, o il mio studio legale, o devo sospendere per forza il mio impiego, e allora mi pagano la sostituzione del reddito mancante. E perché dice ho rischiato grosso? Cioè, ho rischiato che non venisse letto? Quindi è chiaro che anche il Movimento 5 Stelle non era d'accordo, perché siccome devi avere un lavoro spesso per che qualcuno ti paghi l'indennità in questo secondo caso. Quindi lei vorrebbe portare comunque a poco più di 5.000 euro. Io vorrei cercare di fare in modo che quella retribuzione sia giusta, che non sto parlando di poco denaro, perché insomma è un'entità consistente, secondo ma me. Cosa bisogna fare? Sarà una legge del consiglio regionale? È una decisione autonoma del consiglio, io sono semplicemente, da questo punto di vista, uno dei 30 consiglieri della maggioranza, quindi è una mia personale, però alla maggioranza, quindi si auspica naturalmente. Non so bene che quando si toccano argomenti del genere la maggioranza non conta. La maggioranza è variabile, la diciamo. Maggioranza è 29 consiglieri contrari alla riduzione dello stipendio e uno favorevole, lei che lo propone. No, vabbè, non è così, ce ne sono tanti che hanno fatto la stessa considerazione. Noi abbiamo letto un bel consiglio da quel punto di vista, cioè molto nuovo, innovativo, quindi speriamo che passi. L'unico difetto che ha il consiglio è che, a causa di una legge elettorale assurda, non siamo riusciti a eleggere in maggioranza neanche una donna. Questa cosa mi spezza il cuore, perché lei spezza il cuore, neanche una, non lo so, ma zero. Neanche una, tutti neanche uomini. Una, nonostante noi avessimo fatto una campagna elettorale molto concentrata sulle capoliste, soprattutto del Partito Democratico, purtroppo l'elettorato è ancora molto lontano dall'idea di sostenere le donne. Persino le donne non votano le donne, quindi anche questo è un problema serio, perché poi D'altra parte le donne sono in politica molto, molto importanti, molto lucide. Effettivamente tutto il consiglio di uomini è accidente, anche l'impatto proprio non si può vedere. Non si può vedere, effettivamente. Comunque i 5 Stelle invece prendono 2.000, credo di prendano 2.500, 2.700. I 5 Stelle hanno un altro sistema, lasciano lo stipendio com'è, quindi gravano sulle casse del... Però lo accantonano. Però lo mettono da parte, credo, in un fondo per le piccole e medie imprese. Sì, questo è quello che fanno. Un meccanismo un po' diverso, però la tassazione sugli italiani rimane la stessa in quel caso, mentre sistema da noi proposto c'è un risparmio di denaro pubblico. Senta, però i 5 Stelle, ma allora lei tende la mano o no? Perché lei aveva offerto l'assessorato alla Ricchia, che credo abbia rifiutato, ora vogliono, forse si potrebbe dare a loro la presidenza del Consiglio regionale, insomma come funziona? Ma innanzitutto io sto aspettando di insediarmi, perché vorrei parlare con loro nelle veste di Presidente della Regione. Incontri politici prima del tempo non mi pare che siano opportuni. Dopodiché c'è una disponibilità totale, non perché noi abbiamo bisogno di voti, intendiamoci che il centro-sinistra ha una maggioranza schiacciante in Consiglio, è un problema politico. Io considero il Movimento 5 Stelle una delle possibilità che questo Paese ha, assieme al Partito Democratico, che è il mio partito, di cambiare l'Italia e di renderla migliore. Naturalmente questo bisogna farlo governando insieme, eventualmente anche senza fare una alleanza di sistema, ma concentrandosi sulle cose da fare. Noi abbiamo due programmi molto simili, devo essere sincero, abbiamo entrambi il reddito di dignità o di cittadinanza, che lo si voglia chiamare, abbiamo entrambi la strategia rifiuti zero, abbiamo una idea molto simile anche sull'ambiente, e quindi adesso si tratta di vedere se loro accetteranno di condividere dei compiti. Ma rimane l'offerta dell'assessorato, rimane o questa? Sì, anzi, ce ne potrebbe essere persino più di uno, cioè il punto non è questo, anche perché siccome è loro disponibile avere anche due o tre assessori, loro hanno eletto delle donne, quindi io, pur di rispettare la parità di genere, che peraltro è un'indicazione dello statuto della regione, rispettare la parità di genere, potremmo trovare molte possibilità se il Movimento 5 Stelle dicesse: io mi assumo la responsabilità di portare ad esecuzione questo punto, diciamo, del programma che condivido. L'offerta di governo, cioè uno o più assessori del Movimento 5 Stelle, lei è disponibile ad averli? Ma assolutamente, devo dire che credo sia un anelito di tutti i pugliesi, anche del centro-sinistra, e insomma, posso dirla, ho l'impressione che siano in molti anche dall'altra parte a pensare che sia il momento di fare un esperimento, cioè dalla parte del 5 Stelle. Allora, ho tre domande da farle sulla questione Puglia. Il gasdotto TAP, quello che dall'Azerbaigian dovrebbe arrivare in provincia di Lecce, senta un po', il governo lo vuole, la regione con Nichi Vendola no, lei? No, noi abbiamo la stessa posizione del governo regionale Puglia, quindi siamo non volete siamo il gasdotto. Contrari al gasdotto, perché non riusciamo a capire per quale motivo debba arrivare su una delle più belle spiagge della Puglia. Però Emiliano, mi arriva la regione e già subito dice no, la sindrome NIMBY. No, ma non è così, perché noi abbiamo molti altri approdi, abbiamo purtroppo delle zone industriali sul mare dove il gasdotto potrebbe arrivare senza nessuna polemica. Forse perdiamo un altro anno di lavoro o di esami, di cose di questo genere, va bene, è possibile, però siccome nessuno mi riesce a spiegare perché è stato progettato proprio lì, perché questa è la cosa buffa. Quindi lei lo vuole, ma che arrivi da un'altra parte, non è che non lo vuole proprio. Assolutamente, ma voglio dire, diversificare le fonti di approvvigionamento del gas è assolutamente utile, perché... E dove lo farebbe arrivare lei allora? Probabilmente, guardi, cioè, ci sono diverse zone industriali, lo ripeto, adesso non voglio anticipare luoghi e scatenare putiferi, ma ci sono diverse zone industriali portuali dove questo gasdotto potrebbe arrivare senza scatenare nessun tipo di polemica. Vabbè, la spiaggia di Campoca è talmente bella che ovviamente l'idea stessa che qualcuno possa stendersi sull'asciugamano con il tubo sotto il sedere scatena la reazione della popolazione, che non capisce, questo è il punto. Ma lei un'idea della verità ce l'ha, non ce la vuole dire, ma ce l'ha. Sì, è chiaro che ce l'ho, però vorrei discuterne tecnicamente nella sede propria. Ma quindi non ce lo dice? No. Beh, però non è difficile, ci sono delle zone a poche centinaia di chilometri, decine di chilometri da e allora ce lo dica, io non so. Ma ci sono diverse zone industriali, ci sono i porti, ci sono stabilimenti industriali molto forti, molto pesanti proprio sul mare, insomma, non credo che sia necessario mettere questo dito nell'occhio ai pugliesi proprio lì, proprio lì, proprio lì, insomma, non c'è giustificazione. Se poi la giustificazione tecnica esiste, la si racconti, la si spieghi e noi la valuteremo. Senta, invece, so che ci sono ancora fino a oggi, credo, gli ispettori europei per la questione della xylella, no? Esatto. Il battero degli ulivi. Lei ha capito quanti soldi può perdere il settore e soprattutto ha in mente qualcosa per sostenere il settore? Il settore innanzitutto ha già perso moltissimi soldi, perché ci sono moltissimi olivicoltori che non hanno prodotto nulla, e soprattutto ci sono molti frantoi, perché noi avevamo anche una tecnica di spremitura dell'olio molto moderna, a freddo, di grandissima qualità, e tutti questi impianti in questo momento sono sostanzialmente fermi. E come si la produzione... Che si fa? Beh, bisogna dare una mano a questo settore per verificare e soprattutto per superare l'emergenza. Poi bisogna avere idee chiare, cosa che anche in questo caso non mi sembra che siano poi così chiare, nel senso che si rischia di abbattere degli alberi senza avere la certezza che questo abbattimento poi fermi sul serio l'epidemia, ed è ovvio che, siccome questi alberi per i pugliesi, credo anche per gli italiani, sono come delle persone, un ulivo che ha 700 anni, 800 anni, non è semplicemente una cultura che viene spiantata perché si è ammalata, è come una persona. Certo, ma lei i soldi li troverà nell'ambito delle pieghe del bilancio regionale o li chiede allo Stato centrale, all'Europa? Cioè, nelle pieghe del bilancio si può anche trovare, c'è ovviamente una parte di questo denaro che è già destinata a sostenere questo impatto, però è ovvio che in questo caso la questione della xylella è una responsabilità purtroppo dell'Unione Europea. Anche il commissario l'ha dovuto ammettere ieri all'Expo, e quindi ci aiuti, perché non hanno fatto gli embarghi delle piante ornamentali dal Costa Rica in modo adeguato. Queste piante sono arrivate nei vivai e nei vivai hanno infettato anche gli ulivi. È giusto che l'Europa metta mano al portafoglio, che qualcuno ci dia una mano. Allora, Emiliano, per concludere, ma Renzi è in difficoltà? È davvero nel periodo peggiore della legislatura per lei? Ma non lo so, non mi pare una persona che si arrenda facilmente. Questo è un uomo di grande energia, di grande determinazione, e ci sono momenti nella vita comune, nella vita politica, nella quale bisogna forse ricostruire la strategia. Bisogna essere però, secondo me, particolarmente abili nel trovare la condivisione, cioè nei momenti di difficoltà. Un grande manager, un grande capitano d'industria, un grande uomo politico non si chiude in se stesso con i suoi fedelissimi, ma apre il ragionamento e si apre alle tante persone che possono dare una mano. Ma lui è un po' uomo solo al comando, anzi dice: abbiamo perso perché i candidati, compreso Emiliano, non li ho scelti io, o la Moretti o De Luca, no? Vabbè, in Puglia insomma non è vero che è chiaro che il candidato pugliese l'hanno scelto i pugliesi, questo è ovvio, questo però sì, l'hanno scelto bene, spero. E infatti avete vinto, no? Abbiamo preso 30 punti sul secondo e non era mai accaduto nella storia. Però in alcuni casi dice: non li scelgo io, cioè, quindi... Insomma, mi sarà scappata questa frase. Da noi i candidati li scelgono gli elettori, noi facciamo le primarie, possiamo migliorare la tecnica delle primarie, e peraltro le primarie non escludono che qualcuno non selezioni i candidati con una logica politica. Sì. Bisogna sceglierli bene i candidati, ma non importa. Va bene, intanto Emiliano, buon lavoro, ovviamente tenga duro sullo stipendio dei consiglieri regionali. Noi siamo dalla sua parte. La ringrazio ovviamente per essere stato con noi, Michele Emiliano, è stato eletto e tra poco sarà insediato alla regione Puglia come presidente, come governatore del Partito Democratico. Il numero per intervenire 800 24 00 24. A Padova lanciano questa idea, no, non è che la lanciano, c'è un po' in vari comuni, ma l'assessore alla sicurezza ci dice: prendi una multa, invece di pagarla fai un lavoro socialmente utile per il comune. Che ne pensate? Ne discutiamo tra poco con l'assessore stesso. State ascoltando un programma offerto da Fujitsu World Tour, 23 giugno Milano. Partecipa anche tu. Allora, le 8:41 minuti, 800 24 00 24 è il numero se volete intervenire in diretta. Dopo Michele Emiliano vogliamo parlare di questo tema: se prendete una multa perché infrangete qualche regolamento della vostra pulizia municipale, che ne pensate invece di pagare questa multa, di fare dei lavori socialmente utili, qualcosa per il vostro comune, no? Invece di andare a pagare, voi invece fate qualcosa di utile per la comunità. Voglio salutare l'assessore alle politiche della sicurezza del comune di Padova, Maurizio Saia. Buongiorno assessore, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Allora, voi proponete questo, per la verità non siete il primo comune, ci sono casi in Italia, ma avete lanciato a Padova questa idea. Ma perché uno deve pagare in cash, in contanti, no? E cosa potrebbe fare? Intanto circoscriviamo purtroppo per certi versi la dinamica della sanzione sostitutiva, che è solo per il nostro regolamento di polizia urbana, quindi il regolamento del comune, sì. E che poi narra e novella tutti quei comportamenti di educazione e comportamento corretto che si deve avere all'interno di una città, che non sono previsti classicamente da altre leggi. Noi abbiamo pensato questo perché, un po' per il periodo della crisi, un po' perché siamo una città universitaria con 60.000 appunto studenti, mm-hmm. un po' perché è una politica rieducativa che è tipica dei paesi anglosassoni, purtroppo nel nostro sistema normativo è un po' meno diciamo ripresa e riconosciuta, però abbiamo pensato che era una buona idea, soprattutto per esempio quando questi tipi di sanzioni sostitutive, appunto, che vanno su quello che poi il cittadino sa fare, se uno sa tagliare l'erba se uno è uno studente universitario si fa un protocollo con l'università e quindi può andare a fare delle pulizie all'interno dell'università piuttosto che tenere aperta una sala, un'aula di studio o una biblioteca. Quindi è variegata la possibilità, viene stabilito un orario che poi decide come utilizzarlo. E anche il valore, mi sembra anche il valore di ogni ora, cioè ogni ora lavorata sconterà 10 euro della multa presa, verrà valutata. Esatto, a prescindere dal tipo di infrazione, le infrazioni vedono sanzioni che vanno da 50 euro a 500, quindi per la sanzione che è stata irrorata, chiaramente uno decide, faccio un'ora alla settimana, 6 ore al giorno. Ecco, faccia capire, ma uno può anche pagare parzialmente, cioè dire ho 300 euro di multa, non so, 3 ore lavoro e sconto 30 euro, gli altri 270 li pago? Può fare anche questo, dipende dalla volontà dell'autorità, cioè preposta, che è la polizia locale. Sì, chiaro. Perché è la stessa autorità che decide oltretutto se il soggetto può essere abilitato a questa sanzione sostitutiva. Ovviamente queste multe non sono solo le multe, non so, la contravvenzione al codice della strada, ma leggevo anche chi non rispetta le ordinanze. Per esempio c'è quella famosa dell'elemosina con petulanza o molestia. Che male c'è? Ecco, no, non sono tutte, sono gran parte delle sanzioni del regolamento di polizia urbana, non sono tutte. Per esempio l'accattonaggio non è previsto. Noi l'accattonaggio riteniamo che non rientri e non debba rientrare in questo tipo di... Cioè uno che prende la multa per accattonaggio non può scontarla facendo non qualcosa? Non può scontarla, mentre rientra il 90% delle altre sanzioni che sono tipiche dei regolamenti di polizia urbana, l'insudiciamento del territorio, piuttosto che il fatto di avere appunto sporcato in altre maniere, piuttosto che le classiche tipologie di sicurezza urbana, che sono quelle di andare fuori dai luoghi con le bottiglie, è chiaro, ma anche le multe in macchina oppure no? Quelle? Purtroppo no. Come le dicevo prima, il codice della strada è una normativa nazionale, noi non possiamo intervenire in quella. Ci sono degli accenni molto tenui e timidi nel codice della strada, che sono per esempio quando hai la sanzione relativa alla sospensione della patente, puoi anche in parte andare a fare un'attività presso esempio un IPAB, una casa di riposo per anziani, per fare quindi un'attività sociale in quel senso, che viene vista anche rieducativamente, in quel caso il codice della strada lo prevede, però sono sempre molto, molto limitate nel sistema italiano queste. Invece noi qua l'abbiamo voluta mettere nel regolamento cittadino in maniera importante, come ripeto, a parte pochissime fattispecie che sono escluse, come quella che diceva prima, ma tutte le altre ci sono. Una tipica, per esempio, è la prestazione sessuale a pagamento, dove noi colpiamo sia la prostituta. Ah, è vero che a Padova ce l'avete, abbiamo avuto anche il sindaco Bitoncio una volta, ce l'avete molto su questa cosa, no? Cioè, ma noi... sì, noi l'obiettivo è tenere pulite le strade da una presenza sicuramente indecente. Ma quindi... se la prestazione è fatta in luogo pubblico, cioè due che si appartano, uno che si apparta in una macchina con una prostituta e viene beccato, allora c'è la multa. O proprio se c'è la contrattazione. No. Noi abbiamo deciso di multare anche il cliente, prostituta, oltre che il cliente. La prostituta, anche se non è vietato penalmente in Italia prostituirsi in strada, noi però abbiamo deciso che sia un atto indecente, perché è chiaro che c'è un atto. E anche la prostituta può scontare il lavoro invece che pagare. E cosa potrebbe fare? Assessore, stia attento. Guardi, stia attento. Cosa potrebbe fare? Io prima di dire cosa potrebbe fare, le dico che questo credo che sia l'articolo che sicuramente non avrà una frequentazione da parte dei cittadini o delle prostitute a sottoporsi, diciamo, come dire, no, a una pubblicità. I clienti vengono a pagare in silenzio, non lo dica nessuno, esattamente. Quindi questo credo sia proprio uno dei casi rari. Però interessante sarebbe la prostituta che si presenta in comune e dice: eccomi qua, cosa posso fare? No? Questo, per esempio, ci sono in particolare un'associazione Mimosa che è presente sul territorio urbano per recupero dalla prostituzione delle ragazze, soprattutto nei casi in cui ci sono presunte, diciamo, possibilità che sia stata obbligata la prostituta e quindi ci sia una riduzione in schiavitù. In quel caso, quando le recuperano, perché no, potrebbe essere preso una multa, fare anche attività presso l'associazione stessa. Noi puntiamo a fare protocolli con associazioni, perché oltre ai lavori pubblici che possono fare a favore del comune, possono essere fatte, come dicevo prima, all'università piuttosto che ad altri enti, istituzioni. Insomma, in modo da scontare parte della multa. Ripetiamo, se prendete una multa perché avete infranto il codice di polizia municipale a Padova, potreste decidere di prestare del vostro lavoro, 10 euro all'ora vi scontano per il comune per fare lavori che sono utili alla comunità. Assessore, staremo a vedere come funziona. Intanto io la ringrazio per essere stato con noi, Maurizio Saia, assessore con delega alle politiche della sicurezza del comune di Padova, comune non l'ho detto, ma insomma aveva avuto varie volte il sindaco Bitonci, che è di colore leghista. Andiamo al traffico, poi qualche ascoltatore. E allora eccoci qui, Egle dalla provincia di Trapani, buongiorno. Buongiorno, allora guardi, dico subito che io sono completamente contraria a scontare la multa facendo lavori socialmente utili, anche per un concetto di privacy, perché arriva la multa, è uguale per tutti, per tale reato la si paga, poi se uno vuole parlare parla, se però vuole è una scelta, Egle, non è che è obbligata, sì. È una scelta del singolo. È una scelta, è una scelta, ma io dico che in realtà neanche questa scelta dovrebbe esistere, perché chi fa questo un po' si espone, perché è una scelta, magari dice invece di pagare, sì certo, dice c'è un disdoro sociale, c'è la gente che ti vede pulire e dice come vai, pulisci, questo è il concetto, Egle. Questo può essere anche soggettivo, però mettiamo che ci siano 10 persone che devono scontare una multa, cioè la multa per un lavoro sociale per lo stesso reato, ma queste 10 persone faranno lo stesso tipo di lavoro o ci sarà chi farà il lavoro un po' più semplice o un lavoro più difficile, perché quel giorno c'è soltanto quello? Quindi mi sembra un po' anche come una sorta di baratto che non è mai equo. È una sensazione mia, forse sono completamente fuori strada. Chiaro, Egle, è un'idea, poi è una scelta del singolo. Chi non vuole, come dire, una pubblicità perché magari c'ha la ramazza e quindi non vuole essere visto. Ci scrive per esempio un ascoltatore, Mario, dicendo: mia nipote, che è consigliere nel comune di Velletri, ha presentato una proposta per chi si trova in difficoltà: pagare i tributi comunali invece di pagarli, compensandoli con una sorta di baratto di manodopera. Beh, c'è anche addirittura questa idea, non pagare le tasse comunali e dare un baratto, una sorta di baratto in termini di lavoro. Vabbè, Vincenzo dalla provincia di Latina, buongiorno Vincenzo. Non si sente. Buongiorno a lei, intanto complimenti per come condisce la tradizione. Sì, dica. Poi volevo dire sulla questione. Ma la sento malissimo, Vincenzo. Ma la, no, la sento malissimo. Che c'ha l'auricolare? No, il telefono ha ma non si sente, forse no, è in una zona dove non c'è campo. Facciamo così, Vincenzo, magari la richiamiamo se ce la facciamo. Intanto mandiamo la nostra segreteria telefonica, che sapete abbiamo, è sempre ricca di tanti spunti. Il numero è sempre quello: 02 4652 4492. Salvini dice sempre che lui preferisce aiutare i bergamaschi che stanno a dormire in macchina a posto che aiutare gli immigrati. Secondo me lui non aiuta né gli immigrati né il bergamasco che dorme in macchina, e poi si potrebbe aiutare anche tutti e due. Al posto di perdonare quelli che chiudono le porte agli emigranti, aprite le porte del Vaticano, che in quei bellissimi giardini ci sono mille posti da ospitare. Aprite il Vaticano, che avete tanto di quello spazio, cominciate voi! Alessandro Milan, lo studio di un po' di fonetica della lingua francese non ti farebbe male, così non ti meraviglieresti quando il ministro francese dice Nutella. Alessà, smettila di lamentarti che la mattina ti svegli presto, ti alzi presto, vai a lavorare presto. Io sono 30 anni, mi alzo alle 4 e mezza, ma io da rompere coglione al centro come voi, Dopo debosciati siamo noi, Meno caffè! Sì, la gente si lamenta perché mi sveglio alle 5 e lo sottolineo. Non abbastanza, mai abbastanza. Qui siamo con Carmelo Lauricella in regia, che ci abbandona dopo questa settimana, torna all'Alpino, quindi più grappe, non meno grappe, quindi più grappe ci saranno. C'è Lorenzo Nespoli in redazione insieme a Elisabetta Fusconi, che reduce dal concerto di Vasco Rossi, non voglio pensare come la troveremo, in quale stato, e Alessandro Longoni. Potete seguirci ovunque su Twitter, io sono Alino Milan su Twitter, su Facebook 24 Mattino, sul nostro sito radio24.it. lo spirito è sempre quello, soprattutto perché è venerdì e quindi attaccare sempre di più attaccare ancora attaccare